GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Nel mondiale di Formula 1 è dominio Ferrari. Come in Bahrain, anche in Spagna le rosse fanno doppietta. Stavolta però è Raikkonen, scattato in pole, a precedere Massa, dopo un gran premio caratterizzato dalle molte safety car in pista e dallo spaventoso e per fortuna senza conseguenze incidente di Kovalainen. Ma sentiamo proprio Massa. Avevamo dei passi abbastanza vicini, però sapevo che mi fermavo un giro prima, che sarebbe molto difficile da sorpassare, quindi dovevo essere il contrario, davanti e spingere per aprire un gap sufficiente nel box, ma è stato il contrario, quindi attaccare in pista era molto difficile. Stefano Domenicali, direttore della gestione sportiva di Maranello. Noi dobbiamo lavorare tranquilli, cattivi, pensando che non è mai finita, perché l'abbiamo visto, quindi non dobbiamo assolutamente deconcentrarci nemmeno per un secondo, perché sarà lunga e difficile. Terzo posto per la McLaren di Hamilton, ritirato Alonso su Renault. In classifica in testa Raikkonen con 29 punti, davanti a Hamilton con 20. Tra i costruttori Ferrari a quota 47, BMW 35 punti. Appuntamento rimandato, quello tra l'Inter e lo Scudetto. Nella 35esima di A, a San Siro, i nerazzurri superano 2-1 il Cagliari, ma la Roma batte 4-1 il Torino e resta a meno 6. Domenica prossima all'Inter basterà fare lo stesso risultato dei giallorossi impegnati a Marassi con la Sampdoria per vincere il 16esimo titolo. Ma a San Siro ci sarà il derby col Milan. Mancini a Sky Sport non si aspetta regali. Ma io non credo, insomma, perché comunque domenica gioca in casa il Milan e i tifosi saranno tutti del Milan quasi. Il gusto di vincere lo scudetto e basta, ma non se poi capiterà domenica col Siena non cambia molto, l'importante è riuscire a centrare questo obiettivo. La Juventus fa goleada con la Lazio 5-2, in gol anche Trezeguet, Del Piero, e conquista matematicamente terzo posto e preliminari di Champions. Claudio Ranieri. Un grosso ringraziamento ai ragazzi, perché non è stata una cosa facile, però hanno fortemente voluto i campioni e hanno subito acquisito quella mentalità vincente, quella voglia di sorprendere un po' tutti i nuovi arrivati, per cui veramente complimenti a tutti, perché non è facile essere terzi con 3 giornate dalla fine del campionato. Il successo del Milan a Livorno 4-1 con tripletta di Inzaghi e il 2-2 che la Samp acciuffa nel finale a Firenze infiammano la corsa al quarto posto. Il tecnico viola Prandelli. Sarebbe pesante a questo punto del campionato non essere in corsa per il quarto posto e non essere in corsa per una finale di Coppa UEFA. Quello sarebbe veramente pesante. Quindi affrontiamo con gioia questi momenti, con la consapevolezza che dipende tutto da noi. Ancelotti, ora a meno 2 in classifica dalla Fiorentina, sente profumo di rimonta. È importante perché a parità di punti abbiamo il vantaggio dello scontro diretto e quindi vogliamo costringere la Fiorentina a vincerle tutte e tre. E vincere per tutti non sarà certamente semplice. In coda pesano i successi di Regina 2-1 al Parma ed Empoli 1-0 a Genova e la sconfitta del Catania a Udine per 2-1. 0-0 infine tra Palermo e Atalanta e Napoli e Siena. L'ultima giornata della stagione regolare del campionato di basket ha definito la griglia playoff. Ecco gli accoppiamenti: Siena Fortitudo Bologna, Roma Cantù, Avellino Capo d'Orlando, Montegranaro Milano. Decisive le vittorie di Cantù a Rieti e di Avellino a Pesaro. Per il ciclismo va allo spagnolo Valverde la 94esima Liegi-Bastogne-Liegi. L'iberico ha battuto in volata l'azzurro Rebellin e il lussemburghese Schleck. Chiudiamo con il tennis e lo spagnolo Nadal si conferma per il quarto anno consecutivo re del torneo di Monte Carlo. Lo specialista iberico della Terra Rossa ha battuto in finale lo svizzero numero 1 al mondo Roger Federer con un doppio 7-5. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.